e la luna che ghignazza mentre i gatti fanno l'amor. Suona, suona la cornetta col vecchissimo languor, fa sordina la civetta col sassofono tenor. Il violino innamorato solterando suona ancor, il violino che è piattato su polanda amor amor. Suona, suona, suona, suona, suona, suona, il maestro ancora non sa.